1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, 7:18 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali e parlarvi oggi di che cosa? Beh, la vicenda dei vitalizi agli ex parlamentari condannati, forse tra oggi e domani arriva una svolta. Ne parleremo con uno dei questori del Senato, Andrea Malan di Forza Italia, anche con coloro che hanno portato, abbiamo sentito nel giornale radio, le 500.000 firme ai presidenti di Camera e Senato, Boldrini e Grasso. Parleremo di questo, parleremo anche di altri temi. State con noi dalle 8:15 ovviamente. Ora però tuffiamoci nella consueta lettura dei giornali. Questo giovedì 7 maggio intanto i titoli. Tassi in corsa nell'Unione Europea, BTP al 2%, sale l'euro. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore, che guarda anche molto l'accordo tra la Troica e Tsipras, un accordo lontano dunque sulla Grecia, sul risanamento della Grecia. C'è un'intervista al ministro Maria Elena Boschi che dà il titolo di prima pagina del Corriere della Sera. Ora il conflitto di interessi, questo è l'annuncio della prossima riforma, un po' a sorpresa. E poi la vicenda pensioni per Repubblica, pensioni la consulta incalza al governo, rimborsi per tutti. La Stampa, pensioni più alte, rimborsi a rischio. Il Messaggero, pensioni, rimborsi con i bot. Questo è allo studio del governo, dice il Messaggero. Rimborsare i pensionati dopo la bocciatura della consulta con titoli di Stato, non in contanti. Il Giornale, governo ladro di pensioni. Il Fatto Quotidiano, salvano i vitalizi ai condannati e rapinano i pensionati onesti. Libero, la truffa delle pensioni. Insomma, come vedete, il tema della bocciatura della consulta e poi che succederà per i rimborsi è il tema predominante. Ma voglio partire da che cosa? Beh, sono arrivate finalmente le immagini, studiate, esaminate, e sono arrivate le sentenze conseguenti. Oh, direte voi, state parlando del primo maggio, gli scontri del Black Bloc. Ma no, stiamo parlando della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana. Risse durante la seduta fiume, sospesi 66 deputati. È la seduta dell'11 febbraio scorso sulle riforme costituzionali, finita con urla, serva, insulti, spintoni. Sono state visionate le immagini e sono stati comminati, sono state date 602 giornate complessive di squalifica a un totale di 66 deputati, 59 dei quali sono del Movimento 5 Stelle. Il più gettonato e il più punito, Carlo Sibilia, 24 giorni perché urlava serva, serva, serva all'indirizzo della presidente di turno che era Marina Sereni. Poi si poneva alle spalle della stessa Sereni e mimava gesti gravemente irriguardosi, cioè incapacità di intendere e gesto delle manette. Segue Gianluca Vacca, Movimento 5 Stelle, espulso 20 giorni, ha tentato di aggirare lo schieramento degli assistenti per raggiungere i banchi della presidenza. E poi Alessandro Di Battista e Carla Ruocco, espulsi per 18 giorni, turbavano la seduta scandendo la parola onestà, onestà, gravissimo, e si rifiutavano di uscire dall'aula dopo essere espulsi. Si è cavata invece il deputato del PD Sanna. Secondo l'onorevole Ruocco, aveva dato alla Ruocco della zoccola, ma il deputato Sanna si è difeso in sede di inchiesta dicendo: no, ho usato l'espressione tipicamente sarda zacca strada, cioè levati dalla strada. Ecco, e mi scuso per la pronuncia dialettale sarda, quindi era zoccola o zacca strada. Secondo i questori era zacca strada e quindi se l'è cavata. E questo succede alla Camera dei Deputati. Zoccola in aula, si può dire. Titolo di pagina 3 del Fatto Quotidiano. Carlo Tecce, impunito Sanna del PD, 18 giorni invece di sospensione alla Ruocco che gridava onestà, onestà. Vabbè, c'è da sorridere, eh? ma c'è anche da piangere, dipende come la si voglia leggere. Tra l'altro, come detto, Camera e Senato oggi sono chiamati a prendere questa decisione importante, visto che da giorni c'è un pressing, ci sono anche 500.000 firme che sono state ieri virtualmente consegnate al Presidente di Camera e Senato sulla questione dei vitalizi per i condannati, e tutti i giornali denunciano il fatto che c'è un taglio incerto ai vitalizi condannati, per i vitalizi dei condannati. Sergio Rizzo, pagina 8 del Corriere della Sera: per sapere se sarà davvero una disciplina di forte moralizzazione dell'attività politica, come viene definita una bozza di delibera sui vitalizi, non resta che aspettare la sua concreta applicazione. Il caso classico, per esempio, è Dell'Utri. Le nuove regole stabiliscono la cessazione dei trattamenti previdenziali erogati a titolo di assegno vitalizio pensione agli onorevoli cessati dal mandato che abbiano riportato condanne definitive superiori a 2 anni per reati contro la pubblica amministrazione o colpe gravi. Ma è stato tolto l'abuso d'ufficio e poi viene dato il vitalizio indietro a chi ottiene la riabilitazione avendo scontato la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici, cioè molti degli ex deputati, dice il Corriere, come denunciava ieri la questora, il questore del Senato Bottice del Movimento 5 Stelle. Allora, come sarà questo taglio ai vitalizi? Effettivo, virtuale, a metà? Anche per Repubblica, taglio dei vitalizi, scontro finale, pagina 15 di Repubblica, oggi la delibera che revoca le pensioni ai parlamentari condannati. Ne parleremo comunque dalle 8, dalle 8:15. Mentre tiene banco la questione da giorni, è una questione, devo dire, anche molto autoreferenziale di categoria, parliamoci chiaro. È chiaro che questa notizia che finisce sui giornali compaginate non interessa la gran parte della popolazione, ma è una questione di dibattito anche all'interno della categoria dei giornalisti. Il fatto che siano stati pignorati gli stipendi per alcune cause nei confronti della vecchia Unità alla direttrice dell'Unità di allora, Concita De Gregorio, oltre che ad altri giornalisti. Subito viene intervistato Soru, Renato Soru, oggi eurodeputato, ex editore dell'Unità, che dice sia al Corriere sia a Repubblica, dice al Corriere, intervistato da Fabrizio Roncone: mi spiace per De Gregorio, ma sull'Unità io ho perso tanti soldi. A parte che, dice Soru, non sapevo nulla di questa notizia. Ma come, chiede Roncone, lei era l'editore dell'Unità? Non sapevo nulla. L'avvocato Macciotta, che segue l'intera vicenda e che portai io tra l'altro all'Unità, credo abbia voluto risparmiarmi l'ennesimo dispiacere, non mi ha detto di queste cose. Ma Soru, dai, su, è così, le assicuro. L'avvocato sa bene che, ripensando alla mia esperienza di editore all'Unità, già provo da tempo un enorme miscuglio di sensazioni, amarezze, delusione. E guardi, ciò che sta accadendo agli ex direttori e ex giornalisti è grave, non ci si può nascondere, ma io non ho alcuna responsabilità né legale né morale per questo. E dice: io ho perso tanti soldi all'Unità. Devo dire che su Repubblica aggiunge qualcosa in più, intervistato da Tommaso Ciriaco. Renato Soru prima dice: sentiamoci domani che è un giorno complicato, poi dice: no, scusi Soru, c'è questa questione dell'Unità, io non mi sento responsabile, ma le ho detto che sono solidale coi giornalisti, auspico una soluzione a questa vicenda anche per il passato e la cercherò. Scusi, vuol dire che lei è soltanto solidale o pagherà? Ma perché vuol farmi dire cose che non ho detto? Non le ho detto solo che una soluzione deve essere trovata, ma che parteciperò in prima persona per trovarla. Cosa devo dire di più? Credo di essere stato chiaro. Insomma, Renato Soru, intervistato, fa capire. Risolverà personalmente, si adopererà per risolvere la vicenda. C'è da dire che poi cosa succede in questi casi? Che nasce un contromovimento, c'è la solidarietà per Concita De Gregorio, per le giornaliste dell'Unità che una deve pagare, le hanno pignorato la casa. C'è però il contromovimento. Sentite qui, Franco Bechis, vice direttore di Libero: non l'ho mai detto da anni, ma ora lo dico. Anche io sono come Concita De Gregorio. Ho un quinto dello stipendio pignorato per alcune cause, ma la Federazione Nazionale della Stampa, cioè il sindacato, non si è mai mosso. Ho raccolto solo tanti mi spiace, ah non sapevo, beh un po' te la sei cercata visto che sei sempre così aggressivo con tutti. Scrive Bechis: mi difendo perché se prima mi documento, se scrivo. Prima mi documento in una causa penale, cerco di portare materiale a sostegno di ciò che ho pubblicato, ma so che non sono infallibile, a volte sbaglio. In alcuni casi però nei processi addirittura aveva ragione chi mi aveva querelato, ma ha indispettito la Corte con l'atteggiamento tenuto nel processo e ha perso. Insomma, il risultato è che anch'io un quinto dello stipendio pignorato. E sapete chi me l'ha pignorato? Uno è Nichi Vendola, leader del partito che ha candidato la Boldrini, e chi ha fatto la stessa cosa pignorando il mio conto bancario si chiama Giovanna Melandri, già dirigente ministro del PD. Così va la vita. Sono come Concita e tutti se ne fregano. Oggi Franco Bechis su Libero a pagina 8. Ma anche Emiliano Liuzzi, ex giornalista del Corriere di Livorno, ora al Fatto Quotidiano, scrive una lettera a Dago Spia e, come scrive il giornale, dice: anch'io devo pagare 15.000 euro, una sciocchezza, mi rendo conto, rispetto a Concita De Gregorio, ma io non sono biondo ancora, modestamente. E comunque anch'io devo pagare e a me nessuna solidarietà. Vabbè, la categoria si muove compatta. Siamo al momento però dell'articolo che ci fa pensare di questa giornata, l'articolo che ci fa tenere le mani ben strette sul volante se siete alla guida. E mi raccomando, caffè bollenti da appoggiare, perché oggi Repubblica racconta la storia di Shin Dong-hyuk. Chi è, direte voi? Pagina 36. Io, unico evaso dai lager della Nord Corea. Sono nato in un campo di prigionia nordcoreano e per molti anni ho pensato che la mia vita non avesse alcun significato. Nato prigioniero, non riuscivo a immaginare una vita diversa. Respiravo la stessa aria di adesso, sentivo gli stessi battiti del cuore, ma la mia vita non era migliore di quella degli insetti e degli altri animali intorno a me. Non ho mai saputo esattamente perché i miei genitori siano stati rinchiusi in un campo. Credo che anche loro non fossero sicuri della ragione. Per esempio, guardate che però è facilissimo in Corea del Nord finire nei campi. Per esempio, è obbligatorio in ogni casa avere una foto del dittatore in carica, oggi Kim Jong-un, da esporre nel posto migliore e più visibile e da trattare con cura. E ci sono ispezioni mensili senza preavviso per controllare lo stato della foto. Se per caso durante un'ispezione a sorpresa si trova la foto impolverata o appesa male o nella parete sbagliata, bene, questa è una ragione per finire deportati. Se sul giornale compare un'immagine del dittatore e voi per caso lo ripiegate al contrario, o riutilizzate la pagina, o l'attorcigliate, o l'accartocciate, potreste finire dritti in un campo di lavoro, prelevati senza troppe cerimonie, magari mentre state mangiando, aspettando l'autobus. È vietato possedere o leggere la Bibbia in Corea, anzi forse è il libro più temuto. La televisione ha un solo canale che trasmette sempre discorsi, parati, inaugurazioni di piscine, scuole, ospedali, che spesso sono finzioni, vengono sempre presentati come doni del caro leader alla nazione. Voi cosa pensereste se il vostro governo presentasse l'apertura di una scuola come un regalo? Ciò che paralizza i nordcoreani oggi è la paura del regime e delle sue punizioni. Leggete, lui ha scritto anche un libro, leggete la storia di Shin Dong-hyuk, pagina 36 di Repubblica, e se incontrate Antonio Razzi, quello di Fatevi cazzi tua, quelli che in Nord Corea sono tutti liberi, felici perché mangiano e bevono, come ha detto ancora la Zanzara un paio di giorni fa, sbattetegliela in faccia, dai, che tanto è di carta, non fa mica male. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. È arrivato l'arrotino. Alessandro Milan, l'arrotino dell'informazione. Arrota, coltelli, forbici, forbicine, forbici grande, da seta. Grande, grande. Vi ricordo che noi raccontiamo questi lavori, lavori strani, lavori belli, lavori magari scomparsi, lavori chiamate. L'ombrellaio, donne, dovete scriverci a 24mattino@radio24.it e in chiusura di trasmissione raccontiamo ogni giorno un lavoratore. Sentite questo, noi le aggiustiamo, ragazzi, se la cucina fa fumo noi togliamo il fumo della vostra cucina a gas. Va bene, va bene. Allora, oggi c'è un'interessante intervista al ministro Mariana Boschi sul Corriere della Sera, pagina 3, perché fa un annuncio importante. Intervistata da Marco Galluzzo, parla della legge elettorale, dice cambia molto col ballottaggio, insomma, le solite cose già dette, ma annuncia la prossima riforma sarà il conflitto di interessi. Lo porteremo in aula già nelle prossime settimane e se tanti dei nostri ex leader ed ex premier avessero messo lo stesso impegno, la stessa tenacia che hanno messo nelle scorse settimane sui dettagli dell'Italicum, non toccherebbe a noi e avremmo già la legge sul conflitto di interessi. Insomma, si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa col tacco 12 il ministro Marielena Boschi, che aggiunge: non è mai troppo tardi, vorrà dire che il conflitto di interessi lo porteremo in aula nelle prossime settimane. Ora in commissione chiederemo la calendarizzazione in aula entro giugno. Poi giura la maggioranza a numeri schiaccianti. Sul Senato non abbiamo timori. Questa legislatura ha numeri che non sono ballerini. La forbice tra maggioranza e opposizione si è allargata e la maggioranza è schiacciante. Certo, però, la riforma del Senato non è blindata. Siamo pronti a un confronto vero su varie ipotesi, dal sistema delle garanzie a modelli diversi di elezione, per esempio il modello simil Bundesrat, sino all'equilibrio dei poteri. Parla anche della frattura o comunque dei malumori all'interno del PD. A che prezzo avete approvato tutto, chiede il Corriere, ministro Boschi. Civati che va via dal partito, la minoranza non vota la fiducia. Risponde la Boschi: il Parlamento ha votato questa legge elettorale esprimendo in prima lettura la maggioranza assoluta. Nel PD il 90% del gruppo parlamentare si è espressa a favore. Dopo anni di immobilismo mi sembra un grande risultato. Abbiamo discusso 14 mesi, poi abbiamo deciso. A me sembra indice di serietà e compattezza. Liquida, insomma, così la vicenda Civati. Civati che conquista anche oggi le pagine dei giornali perché abbandona il PD. Intervistato dal Corriere della Sera, dice: Bersani è troppo garbato. A pagina 5, Monica Guerzoni: Guerini mi aveva invitato a fare pace con me stesso. Ecco, adesso mi sento in pace. Così Civati. All'aria provata, sono un po' stanco, ma vedo una risposta ottima. Io non ho tradito, è Renzi che non ha rispettato il programma. E su Bersani dice: è un uomo troppo garbato e troppo onesto, lo dico senza ironia. Non voleva enfatizzare i contrasti, ma ricomporli. E Letta? Letta è un po' lontano. E dove va lei? Da Landini? Ci siamo visti, per me è un interlocutore, non credo che la sua iniziativa si chiuda in un fronte sindacale. Se ne va da solo, non è detto che la prossima settimana non ci siano altri movimenti. Per la verità, Renzi in maniera molto dura pare che abbia commentato ai suoi: vabbè, Civati non porta un voto, e quindi il sottotesto è bene così, anche se pubblicamente non lo dirà mai. Fassina invece, un altro a cui si guarda con attenzione, le cui mosse potrebbero essere quelle del PD, intervista di lasciare il PD, intervista sul manifesto a Fassina, intervistato da Daniela Preziosi a pagina 2, dice: capisco la scelta di Pippo Civati, il PD di Renzi si è riposizionato sul terreno della cultura politica, dell'agenda, del programma e degli interessi che rappresenta. Dunque anche lei sta dicendo che lascia il partito? No, non sto dicendo questo, premette subito Fassina, anche perché lasciare un partito non è una scelta solo individuale. Certo, quel che è avvenuto lascia il segno. Non mi sento di escludere niente. Ecco, sarà la telenovela Civati, forse adesso con Fassina. Comunque, Civati lascia e il partito si interroga su questo. C'è molto dibattito invece sulla questione delle pensioni. È una questione che questa sì impatta su milioni di italiani più delle decisioni politiche di Pippo Civati. Le pensioni, sapete, dopo che la Consulta ha bocciato in parte la legge Fornero nella mancata indicizzazione delle pensioni nel blocco di 2 anni, che succede? Che succede? Che bisogna restituire per la Consulta tutto. Ha fatto scalpore il sottosegretario Zanetti, che è sottosegretario all'economia e leader di Scelta Civica, e dice: è immorale restituire tutto. Sono a rischio i rimborsi per gli assegni più alti, secondo Zanetti, che ha premesso: io parlo a titolo personale, cioè, però è sottosegretario all'economia. E quindi Zanetti dice: si deve partire dai redditi più bassi, è immorale dare tutto. Forse in questo di Zanetti c'è anche una difesa di quello che fece quel governo Monti, che ha fondato Scelta Civica. In ogni caso, pensioni, cosa si fa? Rimborsi sotto il 50%. Questo è il titolo del Sole 24 Ore a pagina 5. Davide Colombo e Marco Rogari raccontano che cosa è allo studio del governo. Riduzione di oltre il 50% del flusso di indicizzazione da restituire ai pensionati potenzialmente beneficiari. Questo è l'obiettivo mai dichiarato del governo per recepire alla lettera la pronuncia della Consulta e allo tempo stesso ridurre al minimo l'impatto sui conti pubblici. Dunque, rimborsi sotto il 50%. Il governo punta a questo per il Sole. A parlare apertamente di restituzione impossibile per tutti è stato il sottosegretario all'economia Zanetti, seppure a titolo personale. Palazzo Chigi, al termine di una lunga e movimentata giornata, è stata costretta a ribadire che la linea ufficiale del governo è quella del ministro Padoan, e ribadita dallo stesso responsabile dell'economia, che ieri ha detto: stiamo pensando intensamente sia agli aspetti istituzionali che di finanza pubblica, pensiamo a misure che minimizzino l'impatto sui conti pubblici nel pieno rispetto della Corte. Ecco, quali sono queste misure? Il Sole ne prospetta alcune, il Corriere della Sera ne prospetta altre. Forse la più interessante, che diventa titolo di prima pagina del Messaggero, è questa: lo Stato sta pensando di rimborsare i pensionati con titoli di Stato, per l'appunto, cioè non soldi indietro ma versamenti in BOT e dilazionati. Ecco, qui ci sarebbe l'impatto contenuto sui conti pubblici. Luca Cifoni e Michele Di Branco lo raccontano a pagina 3. Qual è la platea? Chi avrà questi rimborsi? Di certo non io, di certo non Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno. Beh, per noi si apre, diciamo, tutto altro scenario, cioè avremo mai una pensione? Ecco, appunto, ma questo sono grandi domande. Mi pare così, a memoria ci fu un precedente, ma molti anni fa, tu manco eri nato, di restituzione di qualcosa in titoli, ma devo dire sono impreparato sul punto. Mi cogli impreparato, caro Alessandro Milan, e non mi cogli invece impreparato sul piano dell'Unione Europea per il mercato unico digitale, di cui riferisce oggi il Sole 24 Ore, che è abbastanza interessante, perché l'Unione Europea sembra voler pensare a un abbattimento consistente delle barriere tra i vari stati, potrebbe aprirsi un po' di più il mercato, appunto, dei beni digitali. Tra l'altro apprendiamo, ahimè, che siamo un pochino indietro nel ranking europeo per quanto riguarda, lo sappiamo, diffusione, accesso alla banda larga, eccetera, eccetera. Vabbè, tutto questo te lo spiegano comunque Andrea Biondi e Beda Romano oggi nella pagina 8 del Sole 24 Ore, tutti i particolari in pagina 8. Poi ti volevo dire che hanno promesso che taglieranno i costi eccessivi degli adempimenti fiscali già dal prossimo anno. Lo scriviamo nelle pagine di Norme e Tributi. Ti ricordi che lunedì il titolo del Sole 24 Ore era il costo di 17 miliardi? Ebbene, l'impegno è almeno di un terzo, cioè il fisco oscuro, la complessità delle leggi fiscali ci costa troppo, cerchiamo di semplificare, che è sempre un ottimo elemento. Hai studiato l'inglese, caro? Sì, reverse charge. Stai migliorando. No, ma oggi invece le parole che dovevi sapere erano bad bank. Ecco, sappi che sulla bad bank stiamo parlando in finanza. Il ministro Padoan ha detto: prima dell'estate arriviamo con le regole per la bad bank. Dici: ma perché ti interessa questa cosa? Perché, come poi ha ricordato anche il ministro, se riusciamo a, come dire, risolvere questo problema dei crediti non più validi, non più utili, beh, forse riparte anche un po' di credito alle imprese e alle persone, il che non sarebbe una cattiva notizia, ma invece una buona notizia. Allora, visto che stai studiando con attenzione, c'è un'altra parola che devi imparare: whistleblowing, che sarebbe, insomma, soffiare nel fischietto. Sì. Perché ieri, e lo riferiamo nelle pagine di Norme e Tributi, l'ANAC, l'autorità anticorruzione, ha varato la sua determinazione per il whistleblowing, molto dibattuto, anticorruzione. Cioè il dipendente che può segnalare, il dipendente pubblico può segnalare casi di corruzione. C'è chi dice delazione non si fa, c'è chi dice no, è giusto. È precisato che non valgono, come dire, i sospetti. La mail, le procedure, saranno poi, i contenuti della mail saranno accessibili solo a Cantone. Questo lo spieghiamo. A lui, appunto, solo lui. Lui, anche la moglie, immagino proprio. Un suo staff che si occuperà della cosa, ma per dire che ci sarà assicurata la massima riservatezza. Prova a dirlo, whistleblowing, molto bene. Beh. Allora, notizia da dita incrociate, cioè positiva, migliorano i dati del mercato degli animali da compagnia. Mm-hmm. Io ho una tartaruga, non so tu. È un gatto. Hai un gatto, ecco, vedi, allora anche noi abbiamo contribuito nel nostro piccolo. E allora, dopo whistleblowing, invece io tornerei all'italiano per augurarti, come al solito, come ogni mattina, traffico! Per me, la rassegna stampa di Alessandro Milan è una cagata pazzesca! Beh, questo è decisamente il migliore, devo dire, devo conoscerlo, caro ascoltatore, fatti vivo, perché ti voglio stringere la mano. Allora, parliamo di immigrazione, dell'emergenza immigrazione, perché ci sono tanti articoli interessanti su questo tema. Il più interessante lo trovate sul Corriere della Sera, a mio modo di vedere. Fiorenza Sarzanini racconta, pagina 21, che cosa? Le richieste d'asilo arretrate che creano il caos dell'accoglienza. Presto anche noi cercheremo di capire, stiamo cercando di capirlo, di invitare qualche ospite, come funzionano le commissioni. Sono 40 in Italia che decidono sulle domande dei migranti che chiedono il diritto a essere considerati profughi o avere lo status di rifugiati. Ebbene, il Corriere fa sapere che ci sono 40.000 richieste di asilo presentate all'Italia che devono essere ancora esaminate in attesa che arrivino le risposte, e il sistema di accoglienza rischia di andare in tilt. Gli accordi internazionali obbligano le autorità del nostro paese a provvedere all'assistenza dei profughi fino al termine della procedura, ma le commissioni territoriali appaiono ormai ingolfate, i tempi continuano ad allungarsi. Nel 2014 sono state presentate 64.886 richieste per lo status di rifugiato, ne sono state esaminate solo 36.330 e di queste il 38% è stato respinto, e poi ci sono i ricorsi. Insomma, Fiorenza Sarzanini racconta, questi dati sono stati comunicati dal Ministero dell'Interno al Parlamento e fotografano l'ingolfamento di queste procedure. Intanto si litiga, secondo il Giorno addirittura i prefetti sono in rivolta contro il governo. Questo è il titolo che mi fa un po' sobbalzare, visto che i prefetti sono funzionari del Ministero dell'Interno. Comunque, Alfano chiede 20.000 alloggi in giro per l'Italia, l'alternativa è requisire immobili. Si segnala molto, oggi ci sarà un confronto, e ci sarà un confronto serrato tra Ministero dell'Interno, Regioni e Comuni. Per esempio, la Val d'Aosta, con Augusto Rolandin, che è il presidente della Regione, ha fatto sapere che si trova nell'assoluta indisponibilità di garantire accoglienza oltre ai 62 già occupati, cioè non vogliamo tenerne anche uno di più dei 62 pochissimi che tengono in Val d'Aosta. Certo, la Val d'Aosta è anche una regione piccolina. Comunque, sul Secolo XIX, a pagina 2, i migranti, la Val d'Aosta non ci sta, e in Liguria vengono requisiti gli alberghi, requisiti tra virgolette, non è che però insomma, in qualche modo si fa capire che si arriva al punto di obbligare gli albergatori ad accettare l'accoglienza dei migranti. Anche il Giornale racconta questa situazione di tensione. Roma insorge ed è rivolta anti-immigrati. Dopo il caso di Tor Sapienza ci sono picchetti notturni davanti a una scuola abbandonata della borgata La Storta, destinata ad accogliere 300 profughi. Racconta tutto Massimo Malpica a pagina 15 del Giornale. In tutto questo l'ONU che fa? L'ONU discuterà lunedì. No, lunedì, il 18, quindi più avanti, da lunedì si discute, ma già il 18 maggio potrebbe, secondo Anna Guaita del Messaggero a pagina 14, l'ONU, le Nazioni Unite potrebbero dare il via libera all'utilizzo dell'uso della forza, magari distruggendo quei barconi vuoti, ovviamente, prima che vengano utilizzati per le traversate, e dunque l'accordo, secondo il Messaggero, è vicino. Potrebbe già arrivare il 18, il via libera, c'è già la bozza allo studio delle Nazioni Unite. Finalmente l'ONU si occupa della crisi dei migranti, così scrive il Messaggero. Vabbè, c'è ancora invece tanto da discutere, evidentemente, sulle violenze del primo maggio. Parla Per la prima volta il questore di Milano, Luigi Savina, 61 anni, lo fa con il Corriere della Sera e racconta in un'intervista a Gianni Santucci perché la polizia non abbia usato la forza contro i Black Bloc. Ecco perché non li abbiamo attaccati. Abbiamo evitato danni gravi alle persone, che resta un dato di fatto, anche se di certo non possiamo commentare tutto ciò con toni trionfalistici, dice il questore di Milano. Sul fronte sud abbiamo sbarrato l'accesso coi mezzi e gli idranti, che permettono di respingere gli assalti senza far male a nessuno. Così è andata in piazza della Resistenza partigiana. E gli incappucciati hanno cambiato strategia con due obiettivi definiti: cercare di farci attaccare affinché scoprissimo un fronte per poi muoversi tra la folla e infilarsi nel lato scoperto. Noi non abbiamo fatto questo. Erano 600 decisi, organizzati, ma all'inizio dell'attacco le 10.000 persone del corteo erano ancora lì a contatto mentre la coda si stava avvicinando. Entrare in quel momento avrebbe permesso ai devastatori di tornare a farsi scudo del corteo normale per poi uscire di nuovo. Sono stati 15-20 minuti critici. Insomma, dice il questore, la scelta è stata fatta durante il corteo per tutelare gli altri manifestanti pacifici. Per questo non abbiamo attaccato. Per qualcuno è stata lo Stato che arretra in maniera evidente di fronte alla violenza e lascia campo libero alla violenza dei Black Bloc. Per il questore invece è stata una strategia di ordine pubblico per non fare del male alle persone intorno ai manifestanti. Comunque la si veda, chissà se questo chiuderà le polemiche oppure no. Vi segnalo due straordinarie pagine, come spesso vi capita di scrivere, Francesco Merlo su Repubblica, pagina 24 e 25, sulla farsa, dramma, tragedia, se volete, del testamento di Alberto Sordi, impugnato da 37 parenti fino al sesto grado, anche il maggiordomo, che scrive si definiva parente di fatto. Sono due straordinarie pagine molto intense che non so leggere, la penna di Francesco Merlo è sempre una penna sopraffina. Certo, esordisce così: la prima cosa da dimenticare sono i film di Sordi. Qui non c'è la maschera dell'italiano, ma il suo sudario. Non la poesia dolce e cattiva della commedia, ma la prosa dei cassamortari, i verbali di sepoltura, i sigilli notarili, la congiura dei camerieri che si sono sostituiti ai padroni. E c'è il testamento impugnato da 37 parenti, consanguinei ma per via dei grandi avi, visto che Alberto e i suoi quattro fratelli sono morti senza figli e senza coniugi. Sono due pagine molto illuminanti di come va un certo spaccato d'Italia. Il testamento di Alberto Sordi, pagina 34 e anzi 24 e 25 di Repubblica. Siamo in chiusura? Sì, vedo Lorenzo Nespoli che entra in onda e quindi con Periscope, siamo in diretta su Periscope per raccontare la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, come sempre a mio insindacabile giudizio. E oggi vince un amico, Alessandro Dell'Orto di Libero, che racconta in una pagina il nuovo emoticon. Il nuovo, sapete, le faccine, le cose. È apparso il nuovo emoticon, l'emoticon vaffa, il dito medio alzato, l'emoticon vaffa, una pagina su Libero. Ma chi se ne frega!